L'elefante, Meccana numero 19, di 5 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Non hai visto come agì il tuo signore con quelli dell'elefante? Non fece fallire le loro astuzie? Mandò contro di loro stormi di uccelli. Lanciati su di loro pietre di argilla indurita. Li ridusse come pula svuotata.